se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. Massimo, possiamo centrare un posto in Champions. Chiedo a lei, che conduce una trasmissione così credibile, seria. Tutti convocati di Carlo Genta. Sovrappensiero, sa, gli schioppi. Di, ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Bene. Passiamo alla rivista. Sì, addio. No, di qua. Beh, sarete d'accordo con me, no? Franco Piantanini, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia, sarete d'accordo con me sul fatto che... Ditemelo, 800240024, siamo qui per voi. Messaggi 349-238-6666. Sarete d'accordo con me? L'estate italiana è molto cinematografica e l'attore da Oscar del mercato non poteva che essere Aurelio De Laurentiis nelle vesti del nuovo sceicco napoletano. Vende Cavani, ne becca 64 di milioni di euro, ne aggiunge 60, lo dice lui, li fa vedere al mondo, guardate che qui ce li ho, poi li spende tutti o quasi, ma non ha ancora finito, Albiol, Calejón, Martinez, Higuaín, Reina, fino adesso siamo a un'ottantina, offerti, ed è trattativa in corso ora, 32 milioni di euro al Porto per Jackson Martinez, i portoghesi che intendono fare cassa e stanno facendo cassa in maniera importante, ne chiedono 40, l'impressione è che l'affare si farà magari a metà strada. Alla faccia di chi se n'è andato, dice a tutti, sottovoce oppure no, Aurelio De Laurentiis. Però non c'è solo il Napoli in questa estate del risorgimento italiano, c'è anche la Fiorentina, c'è anche la Roma, oltre alla Juventus che ha aperto la strada dei top players, come scrivono oggi dappertutto, con Carlito Stevez e poi sono arrivati gli altri. Dunque un'estate di flash che scattano non solo sulle spiagge di Ibiza, di Formentera, sulle spiagge di Forte dei Marmi e dei calciatori italiani. Flash che scattano, telecamere che ronzano, tifosi che impazziscono come a Firenze per Mario Gomez. A Firenze per Mario Gomez, addirittura non a Napoli ma a Fiumicino ieri per Gonzalo Higuaín. Ma vi rendete conto? Questa non era la presentazione al San Paolo che sarà lunedì in pompa magna e mi vengono in mente quei palleggi di Maradona in jeans con la palla sparata in tribuna, un giorno ormai lontanissimo, però le suggestioni sono queste, vogliamo essere ottimisti anche se qualcuno non lo è, poi ne parliamo perché l'estate italiana non è solo mercato, non sono solo campioni, sono anche ululati, sono anche scommesse, sono anche molte altre cose, però visto che siamo in argomento c'è anche... Questo è l'effetto invece dell'arrivo di Cavani nella Ville de Lumière al Chasse de Gaulle di Parigi. Dove sono? Non si sente nessuna voce, ma penso perché l'affare più colossale del mercato, 64 milioni di euro, è arrivato in silenzio, nel silenzio di Parigi. Nemmeno uno straccio di tifoso che gli chiedesse un autografo, povero Cavani, nessuno che lo guardava, nessuno che si rivolgeva a lui, nessuna parola, silenzio, il rumore del vento. Parigi è molto lontana e Claudio Pasqualin, principe del foro dei procuratori italiani, è qui con noi. Ciao, buongiorno. Ciao, ma Parigi è lontana, sì, perché sta superati, noi la guardiamo da dietro, no? Noi vediamo tutte le luci della Ville Lumière, le guardiamo dalla retrovia, ma chi l'avrebbe detto qualche anno fa che il nostro calcio sarebbe stato dietro anche quello francese? Eppure sì, ma dietro vediamo, dietro vediamo, caro principe, perché sì, vediamo se, se è dietro, perché questo mercato è quello della revanche del, del calcio italiano. Tu mi devi spiegare un mistero. No, non è così? Prego, prego. No, per me no, per me continuiamo a buttare la polvere sotto il tappeto, ma per il resto, insomma, i cocci riempiono la casa. E non si vede, come dire, la soluzione, no? Anche dal punto di vista della normativa, della politica, siamo un po' allo sbando. Pensate un po' all'efficienza, stavo a dire efficientismo della Lega o della Federazione. Ma cosa fanno? Ma cosa si fa? E gli stadi? Continuiamo a essere veramente gli ultimi, ed è tristissimo se pensiamo che fino a qualche tempo fa ci proclamavamo, autoproclamavamo il campionato più bello del mondo. Sì, ma questo, questo accadeva, accadeva molti anni fa, prima della crisi. Alcuni lustri fa, sì, alcuni lustri fa, purtroppo, sì. Però, insomma, essere così rassegnati a, a venire dopo la Premier, dopo la Ligue francese e adesso anche la Bundesliga è un po' triste, sinceramente. E, sì. E secondo me, ma so di contraddire, probabilmente contraddico la, la tesi che ho sentito accennata, sì, non basta l'arrivo di Higuain, Tevez, Llorente e compagnia cantante, non basta, i lustrini che una volta erano la caratteristica delle Folies Bergère, quindi di Parigi, adesso ce li abbiamo noi con questi personaggi, ma sotto sotto la nostra resta una sostanza molto molto misera per me. Sì, intanto c'è una notizia abbastanza misteriosa, che però viene diffusa, salta la presentazione di Gonzalo Higuain che era prevista per le 19:30 e questo è un mistero che vedremo di appurare. Senti Claudio, mi devi spiegare una cosa che per me resta incomprensibile, cioè la strategia di Aurelio De Laurentiis che, contrariamente a quanto si deve fare, no, in questo mondo, sventola sotto il naso dei competitors 124 milioni e mezzo di euro, dice io ce li ho qui, voglio comprare giocatori, questi soldi li spendo per il Napoli, e poi li spende davvero perché siamo a quota 80, adesso sta trattando Jackson Martinez, arriviamo vicino a quella quota. Perché ha fatto questa mossa? Ma guarda, perché un mio assistito dell'epoca si chiamava Carlo Perrone, buon giocatore dell'Atalanta, ricordo, del Vicenza, di altre squadre, scrisse un libro, Carletto, non parafrasando ma riprendendo la lettera, la frase di un suo allenatore, credo si trattasse di Salvemini, e il titolo del libro era Ogni uomo hanno la sua personalità, no? Quindi lui è uno di questi, ha la sua personalità che non piace a molti, che a volte è aggressiva, come dire, all'eccesso, a volte così è quella del padrone delle ferriere. Io non me lo spiego, insomma, ecco, non ha una non sembra, come dire, comprensibile, ecco, perché si debba tenere un atteggiamento come quello che ha tenuto lui. Però, insomma, alla fine, cosa vuoi, il popolo napoletano, stavo per dire lo ama, ma non sono così sicuro di questo, insomma. Beh, no? Però grazie a lui, insomma, motivo di godere e di far festa, perché il Napoli si presenta molto, molto competitivo quest'anno e con grandi ambizioni. Sì, e questo, sì, secondo me questo suo modo di fare però non piace a molti, insomma, però ogni uomo hanno la sua personalità. Hanno la sua personalità, ma è molto cinematografico, De Laurentiis, si cala perfettamente, sì, nel suo personaggio, perché è contro ogni logica sventolare appunto quella mazzetta molto, infatti, molto alta, molto consistente, e poi andare a fare il mercato, perché è ovvio che ti chiedono sì, caccia i sordi, diceva una volta, no, De Laurentiis, quando dicevano all'Inghilterra vogliono Cavani, vogliono Ramsey, caccia i sordi. Senti, sì. Principe Pasqualin, ti chiedo un istante di pazienza per il traffico e poi voglio, tu dicevi prima la spazzatura va sotto il tappeto, però i soldi volano perché la Serie A in Europa è seconda in classifica come spese e questa mi sembra una discreta novità. Tutti convocati. Dunque torniamo, collegato con noi Claudio Pasqualin, dicevo prima principe del foro dei procuratori, e leggendo queste cifre serve un'illuminazione, perché spese fin qui per i trasferimenti, per il mercato, allora per quanto riguarda i vari campionati, guida la Premier League per quanto riguarda le spese con 366 milioni di euro, seconda in classifica la nostra Serie A spernacchiata, con quasi 305 milioni di euro di spese. Segue la Ligue 1 a un mezzo milione di distanza, poi la Liga Spagnola, 227 milioni e 400 mila euro di spese, poi la Bundesliga, 204 milioni, Russia, 92 milioni, quasi 93. Il Napoli è quarto in classifica quanto a spese, 79 milioni 450 mila euro, primo il Monaco, secondo il Man City e terzo il Paris Saint-Germain. Napoli 70, quasi 80 milioni di euro al rialzo, perché altri verranno spesi appunto pare per Jackson Martinez. Come la mettiamo qui, Claudio? Ma io non credo che ci sia l'equazione, no? Più spendi, più vinci o comunque sì, più fai spettacolo, no? Quindi constatiamo che abbiamo speso molto e pur non avendo un petacchino, anzi non avendo neanche gli occhi per piangere, riusciamo in qualche modo a inventarci gli euro per fare queste cose. Alcune sono state fatte peraltro, questo occorre sì dirlo in maniera seria, oltre che seria anche molto oculata, vedi gli acquisti che ha fatto la Juventus, perché Llorente fu tempestivamente acquisito a 0 euro, e anche l'acquisto di Tevez nel cosiddetto rapporto qualità-prezzo sembra veramente un'ottima operazione. Per le altre hanno speso parecchio, soprattutto il Napoli, però questo non significa che il Napoli vincerà, perché sappiamo tutti che quando uno compra una pressa per stampare le lamiere, stamperà 100 lamiere all'ora, metti, ma se tu compri un centravanti non sai quanti gol farà. Higuain, per la verità, si profila come uno che di gol ne farà tanti, però dovrà dimostrarlo sul campo. Cioè io non, come dire, non mi illuderei, non mi esalterei alla constatazione che abbiamo speso tanto, e non mi illuderei soprattutto di rivedere la nostra Serie A a competere con la Ligue, con la Premier, dove gli stadi sono molto confortevoli, sì, e dove c'è tutto un indotto di livello, e neanche con gli altri campionati europei. Ci vorrà del tempo e ci vorrebbero gli stadi, delle normative che, come dire, a parer mio anche limitassero un po' questo come dire, questa esterofilia, lasciatemelo sì, dire, perché anche se sembra populistico, no? Evocare i nostri, la tutela dei nostri vivai, io mi sento sinceramente di farlo, e quindi constatiamo che abbiamo speso tanto e speriamo che alle spese corrisponda il divertimento per i tifosi, che alla fine tengono su tutta la baracca. Certo, cioè, che si comportino bene, perché stando sì, ai certo, primi exit poll estivi mi sembra che qualche problema qualche ci sia, c'è stato, sì, qualche problemino c'è stato, fuori tempo, fuori luogo e fuori, sì, fuori da ogni logica assolutamente civile. Grazie Claudio. A voi, un abbraccio, buon lavoro. Ciao. Grazie ciao a Claudio Pasqualin, che dunque ci dice: la crisi non è alle spalle, nonostante il calciomercato sembra dire il contrario, non l'ufficio, il centro studi di Confindustria purtroppo, ma il calciomercato, ripeto, Serie A seconda in classifica con quasi 305 milioni di euro spesi, ma bravi anche i nostri dirigenti, tante volte li abbiamo criticati, in questo caso bisogna dire l'incasso è stato di 276 e 480, oggi diamo i numeri, come al solito dirà qualcuno un po' maligno. Ebbene, insomma, i nostri dirigenti hanno comprato e speso molto, ma hanno anche venduto bene. Ma ci sono, in questa estate italiana, mentre per quanto riguarda Higuain, le notizie che arrivano in modo abbastanza frenetico, dicono conferenza stampa annullata perché c'è qualche dettaglio del contratto del giocatore argentino da sistemare. Dunque, nessun problema, però aspettiamo un attimo a presentarlo. Dunque, tutti allertati, spero non troppo allarmati, i tifosi napoletani. Ma tant'è, estate italiana, in attesa delle vostre voci, 80024 0024 e anche dell'altro. Dunque anche dell'altro, perché Toir è in volo verso Milano, dicono le agenzie. Lui risponde con SMS dicendo: ancora non ho comprato l'Inter, auguratemi in bocca al lupo, fate il tifo per me. Toir è in volo verso Milano con, pare, anche qui non c'è certezza, 350 milioni di euro per il 75% delle azioni, delle quote azionarie dell'Inter. Addirittura c'è chi dice domenica firmeranno con gli svolazzi in uno studio di notarie di Milano. Non resta che attendere Toir. We'll be right back. Poi, l'estate italiana è anche questa. Rubbish, spazzatura. La sensazione è che Constant, non abbiamo visto cartellino rosso, abbia sentito qualche cosa di poco piacevole dalle tribune. Espulso, sentite, no? Non è espulso, è lui che se n'è andato. Oh, non dire, un po' di attenzione, sentite, non stupidate, non è espulso, è uscito lui per le coreografiste. Adesso facciamo. Non gioco più. Te ne vado. Non gioco più. Costa, dunque, a parte è chiaro che i cori sono ignobili e quindi vanno combattuti, ma voglio fare un comunicato stampa. Però le regole del calcio sono, premesso che è veramente una cosa scandalosa, queste cose esiste. Le regole del calcio sono che quando succede si rivolge all'arbitro, l'arbitro lo dice al quarto uomo, che avvisa il responsabile della polizia, che è l'unico autorizzato a sospendere la partita. Non si può uscire dal campo, quindi premesso solidarietà totale, assoluta, eccetera, perché sono veramente inqualificabili. Però non va bene, gliel'ho detto, gliel'ho ripetuto e l'ho scritto anche a tutti. Non si può uscire dal campo. Gagliani, per quanto mi riguarda, e non condivido invece i toni del disfattismo e della rassegnazione che ho letto oggi su molti giornali, su molti quotidiani. Siamo così, non possiamo farci niente, fa schifo tutto, è tutto da buttare, è tutto a rivedere. No, bisogna lavorare e bisogna rispettare le norme e bisogna introdurre quelle che mancano, anche se questo è il paese al mondo in cui ci sono più normative, decreti, leggi, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo il paese più regolamentato del mondo, ma poi non le rispettiamo. Però al disfattismo io non mi allineo, perché non voglio rassegnarmi a quello che è successo l'altra sera. Detto questo, sono d'accordo con Gagliani, perché non siamo all'oratorio. L'estate italiana è anche malaffare. L'estate italiana è anche, come sapete, ormai da molti anni, perché questo è un refrain estivo che torna tutte le volte, ormai da 5-6 anni, per non andare indietro troppo, è anche calcio scommesse, è anche super lavoro per Palazzi, per la Procura Federale, è anche tutto questo. Previa ovviamente affermazione di responsabilità per tutti quanti i soggetti deferiti per le incolpazioni loro mosse, per Mauri, che risponde di molteplici illeciti, la squalifica di anni 4 e mesi 6 per Milanetto, che risponde di un solo illecito sportivo, la squalifica aggravato dall'effettivo conseguimento del risultato, la squalifica di anni 3 e mesi 6 e per la società Lazio, che risponde di due illeciti sportivi a livello oggettivo commessi tra gli altri da un calciatore particolarmente rappresentativo, la penalizzazione di 6 punti in classifica e euro 20.000 di ammenda nei confronti della società Genoa, che risponde di un illecito aggravato. Si chiede l'applicazione della penalizzazione da scontare per la prossima stagione sportiva di 3 punti in classifica, analoga richiesta per la società Lecce di 3 punti da scontare per la prossima stagione sportiva. Quello che avete sentito è Palazzi con le richieste che sono note, come quella squalifica enorme per Mauri, la penalizzazione molto forte per la Lazio, ma anche per il Genoa. C'è chi mi scrive: la vera spazzatura, il calcio scommesse è molto peggio di un bu. Non fare il moralista, non fare Padre Pio, che non lo sei, non lo sono per niente, ma non sono neanche moralista, come sapete, solo che non mi piace tanto pesare i sacchi della spazzatura, vedere quale pesa di più o quale puzza di più. Sono questioni molto diverse che non possono essere parametrate, a mio parere. Uno riguarda la normale civiltà e l'altro riguarda un reato, quindi non mi sembra si possa fare un raffronto. Euro, Milano, Claudio, Roma, Paolo, provincia di Treviso. Prima a cavallo con la borsa. Euro, buongiorno. Sì, ciao. Io stavo facendo una certa scusa, ma sento un eco che mi ritorna dal telefono, magari sì. Ho un po' di problemi nel esprimermi. Allora, De Laurentiis ha avuto, secondo me, un'idea geniale, ovvero lui si mette in una posizione che vuol comprare, ma aspetta qualcuno che offra. E tu mi insegni che se io vado da te per comprare, tu hai una posizione prioritaria, ma se qualcuno mi si presenta, io ho una possibilità di poi trattare ed eventualmente avere una posizione prioritaria nell'acquisto. Io penso nelle trattative sono un po' un disastro, ma nella vita di tutti i giorni, però non ho mai ottenuto uno sconto in vita mia, però questo è vero, quindi vengono offerti giocatori al Napoli, però è anche vero che in ogni trattativa far vedere, scoprire le carte, far vedere quanti denari hai in tasca non è normalmente una grande idea, tanto che secondo me Albiol è stato pagato moltissimo, perché 12 milioni se non ricordo male, penso di non sbagliarmi, Albiol è stato pagato molto, Calejón è stato pagato molto, Higuaín 40 milioni non è poco, c'è chi mi dice, fa i raffronti, no? Via SMS, 40 milioni Higuaín, 25 Jovetic, parliamone, data considerata l'età, considerato anche il talento di Jovetic, non lo so, io non sono in grado di stabilire, di attaccare un cartellino del prezzo ai giocatori, certo 40 milioni sono tanta roba, 40 milioni sborsati per Gonzalo Higuaín. Dunque io credo che in una trattativa, se si scoprono le carte, si comincia a giocare in una posizione di apparente debolezza, almeno questa è la mia sensazione. Tutti convocati. Torniamo con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Grazie per l'attesa, Claudio da Roma e Paolo da Treviso. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire un attimo sul problema del calcio scommesse, che secondo me è la vera notizia d'apertura per l'ennesima volta nel nostro calcio. E volevo lanciare due provocazioni, una un po' più seria e una un po' più goliardica. Quella più seria è questa: io ho sentito intervenire nei giorni scorsi per quanto riguarda il doping nel ciclismo, ascoltatori indignati che propongono di boicottare assolutamente questo sport. Eppure nel doping, come qualcuno faceva rilevare, ci deve essere anche una stoffa per poter poi ottenere un risultato, ci si mette in discussione come atleti, mentre nel calcio scommesse è solo un'ignominia, è solamente una cosa squallida fatta da persone che già guadagnano tanto per guadagnare ancora più e ancora più facilmente, minando le fondamenta di uno sport che amiamo tutti e che forse dovremmo cominciare a disertare. E questa era la prima cosa che volevo chiedere e sentire il suo parere. La seconda invece sia lasci stare goliardica da vecchio cuore giallorosso, e mi domandavo a proposito del calcio scommesse come mai dagli anni 70, Dario Cecconi, Giordano, Chinaglia, Mauri, e perché i capitani della Lazio finiscono sempre in carcere? Però questa seconda constatazione sa troppo di tifoso, ma forse anche la prima, perché se ci fosse stata immischiata la Roma non so quale sarebbe stata la sua posizione in tutta l'età. Però lasciamo perdere le bandiere, anche in questo caso è difficile parametrare il doping con quell'altra forma di doping che è il denaro. Difficile parametrare le due cose, difficile dire chi si scandalizza o chi interviene o chi nutre dubbi sul ciclismo e dire chi è imbrogliato nel calcio in altro modo, pro domo sua, non per vincere una partita ma per fare denaro. È molto difficile parametrare le due cose. Di questa storia delle scommesse si parla da anni, credo che le richieste di Palazzi siano suffragate da prove e tentiamo di fare piazza pulita, però sappiamo perfettamente, inutile fare le verginelle, no? Dove circola tanto denaro circola anche malcostume, malaffare, circolano persone che si venderebbero la mamma per un euro in più e insomma circola questa gente. Poi vediamo cosa succede nel processo sportivo e in quello penale, che a me interessa anche di più, se permettete. Paolo, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Chiamavo in merito al... Chiedo scusa, ma ho un'eco abbastanza fastidiosa. Sì, proviamo a vedere se si chiamavo in merito al problema doping. Io sono uno degli spettatori che ha spento la televisione in occasione delle manifestazioni di ciclismo. Io ho esercitato il mio diritto di non vedere l'evento, certo. Diritto di telecomando sacrosanto. Anche sopra. Prego? Diritto di telecomando sacrosanto, dicevo. Sì, esatto, esatto. E soprattutto perché dentro di me ho uno dei più bei ricordi sportivi, non so se qualcuno se lo ricorderà, la vittoria a mani alte di Armstrong prima della malattia, qualche giorno dopo la morte di Casartelli. Come no? Io, guardi, ho impresso nella mente e nell'anima molte immagini del ciclismo. Armstrong che guarda il cielo, Armstrong, esatto, che vince sull'Alpe d'Huez, e io, se posso, quelle tappe, quando le passano sui canali che fanno vedere Sport d'Antan, io me ne riguardo, così come riguardo Pantani Amorsin, così come riguardo Pantani Armstrong sul Mont Ventoux, così come riguardo Hamilton, altro dei grandi accusatori di Armstrong, che taglia il traguardo del Tour de France con la spalla rotta, così come ricordo Abdujaparov che taglia a piedi il traguardo del Tour con la maglia verde addosso dopo che si era schiantato contro una transenna, così come riguardo gli sprint di Cipollini. Insomma, io riguardo tutte queste cose e quelli sono gesti sportivi che mi hanno profondamente emozionato. Poi adesso vengono a dirmi, anche fuori tempo massimo se vogliamo, largamente fuori tempo massimo nel caso dell'ultima inchiesta, perché io non capisco quale sia la finalità. L'ha detto oggi Gianni Bugni in un'intervista sulla Gazzetta, presidente della Federazione Internazionale Corridori, ma quale senso ha, al di là di tutte le altre cose che ha detto, che sono quelle che diciamo tutti, che sono, se volete, anche un po' banali, però quale senso ha alla fine della storia questa santa inquisizione retroattiva, questa crocifissione postuma del ciclismo ed in particolare di Marco Pantani? Cioè, dove si vuole arrivare? Al di là dello sparare fango sul passato, al di là dell'albo d'oro del Tour de France disseminato di croci, che per tornare all'ultimo vincitore che non è mai stato coinvolto nel doping, credo si debba risalire a Miguelone Indurain, no? Perché poi da Olano in poi sono finiti dentro tutti pescati nella rete, dentro tutti con la mano nella marmellata. Allora cosa facciamo? Non lo guardiamo più. Giusto esercitare, per chi vuole come nostro ascoltatore, il diritto di telecomando, che è sempre sacrosanto. Giusto però è legittimo, per chi vuole crederci ancora o ancora emozionarsi o ancora avanzare dubbi e sospetti come sottoscritto, non schiacciare il bottone che cancella il ciclismo. Allora, voglio cambiare argomento, ma voglio ancora parlare con voi, 800 24 00 24, dopo, perché oggi alla fine è un giorno in cui mi sentivo ottimista dopo l'arrivo di Higuain, dopo un calcio italiano che rifiorisce. Voglio continuare alla faccia dei pessimisti su questa onda. Bravissimi, tutti quanti possiamo fare veri professionisti da adesso in avanti. Sarà una cosa che ricorderete per sempre, siete stati bravissimi. Adesso tutti per la nazionale maggiore, amici hanno un altro con i grandi. Bravi a tutti. Avete sentito? Era il discorso di Pino Sacripanti, neo allenatore di Cantù nel basket e il nocchiero della nazionale italiana under 20 di pallacanestro, che è tornata, che è arrivata sul tetto d'Europa con Amedeo Della Valle star, con una covata di giocatori che ci fanno ben sperare, e con una nazionale maggiore presentata ieri che alla fine, insomma, a me sembra fortissima. Magari mi sbaglio un'altra volta, come sempre succede. Intanto un oro l'abbiamo messo al collo, grazie Pino Sacripanti. Grazie a voi, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Pino. Senti, la genesi di quest'oro, da dove nasce? Com'è nata questa medaglia d'oro? Beh, intanto nasce da tanti anni di lavoro fatto con l'Under 20, e quindi con tanta passione, tanta programmazione fatta dal settore nazionale ed aver visionato tanti giocatori. E poi nasce da frutto di un lavoro intensissimo da ragazzi splendidi, nati dai nostri settori giovanili, che sono riusciti ad avere poi la meglio sotto tutti gli aspetti. Siamo cresciuti, abbiamo messo tanti ragazzi interessanti con una determinazione, una voglia veramente da applaudire, veramente di altissimo livello. Quindi mettersi poi vincere, avere la medaglia d'oro al collo, è qualcosa di veramente bellissimo. Però qui devi sciogliermi un dubbio, perché io non lo capisco, non capisco più niente. Allora, ma i settori italiani non erano derelitti, in crisi? Non si continuava a piangere sull'assenza di giocatori italiani, a piangere sulla presenza massiccia di giocatori stranieri? Guarda, sul fatto che eravamo in crisi, anche qui era tutto da buttare, Pino, ma com'è? No, io credo che sia da vedere sotto un altro aspetto. Noi fino ai 19 anni abbiamo ragazzi, magari non quantitativamente tantissimi, non abbiamo tantissimi giovani, ma quelli che abbiamo li abbiamo molto forti. Il problema credo che sia quel gap che manca, quel gradino, quello step che manca da farli diventare giocatori di Serie A, cioè quella fascia d'età tra 19 e 22 anni, quelle che in America vanno a giocare in università, mentre da noi invece fanno il decimo in Serie A, l'undicesimo, oppure vanno nelle categorie minori, dove in questo momento si ha un po' più di difficoltà nel farli diventare giocatori veri, importanti, perché le strutture non sono più quelle che sono. Però dobbiamo domandarci questo. Io negli ultimi 8 anni noi abbiamo fatto 5 semifinali, abbiamo preso 3 medaglie, quindi io credo che i giocatori italiani giovani ci siano. Bisogna fargli finire il ciclo di lavoro, fargli completare questo ciclo per far sì che a 22-23 anni siano pronti per la Serie A. In questo momento uno o si chiama Alessandro Gentile, che a 17 anni va in quintetto base a Treviso e poi dopo è passato a Milano, oppure giocatori che non finiscono un ciclo di costruzione lavorativa e che rimangono un po' a metà e metà tra la Serie A2 e la Serie B1, non trovando poi più tanto spazio nella Serie A1. Sì, resta in ogni caso il mio pensiero, che è un po' estremista da questo punto di vista. Sono contrario al proliferare delle norme e delle regolamentazioni. Secondo me, al massimo livello professionistico, la Serie A, per parlare chiaro, deve valere un'unica legge, che è quella del mercato. Quindi non contingentiamo i giocatori italiani, lasciamoli nuotare nel mercato come è giusto che sia, non mettiamo le corde al collo dei club italiani imponendo un certo numero di giocatori. Chi non trova spazio in Italia, come dice il mio amico Dan Peterson, vada a giocare in Lussemburgo, vada a giocare in Austria, prenda la valigia e vada a cercare il suo spazio per crescere, anche per trovare campo. Non ha senso, Pino, secondo me, dare ai giocatori italiani, a un pugno di giocatori italiani, certi privilegi. No, però è un ragionamento, secondo me, corretto quello che fai, però non completo, nel senso che io penso che si possa fare tutte e due le cose, cioè si possa lasciare il giocatore italiano libero nel mercato, lasciando magari anche tutti liberi con 12 stranieri, per assurdo. Sì. Però se uno fa questo, deve creargli perlomeno una scuola parallela dove fino ai 22 anni possa finire la formazione, perché sennò a 19 anni nessuno è realmente pronto, perché i lunghi si sviluppano più tardi, perché nessuno ha avuto ancora esperienza, e noi non abbiamo un campionato che possa essere, diciamo, un under 22, chiamiamola così, dove loro possano finire questo ciclo di completamento. Allora siamo un po' sfavoriti. In America è così, c'è libera professionalità, libera concorrenza, giocano i più forti, però fino ai 22 anni sono sotto un'università dove possono crescere. Quindi io dico, hai ragione nel dirlo, però parallelamente dobbiamo dargli un sostegno per poter far sì che loro questo possano entrare a livello competitivo ai più alti livelli. Questo certamente, cioè serve l'equipollente, ma se ne è parlato a lungo, ovviamente non si è risolto un tubo, però si è parlato a lungo di un campionato parallelo che potesse consentire ai giovani di crescere. Si è parlato anche di Club Italia, quindi di una squadra sotto l'egida federale che potesse partecipare o iscriversi a campionati comunque competitivi. È chiaro che manca un campionato di questo tipo. Però Pino, per concludere il nostro... Sì, dimmi. Però perdonami, io credo che però i risultati Under 20 siano da far... servono per far pensare a tutti. Se noi in 8 anni abbiamo fatto 5 semifinali, vuol dire che fino ai 19 anni noi siamo molto competitivi con tutti. Sì. E dopo non lo siamo più. E dopo tanti giocatori che entrano magari nel miglior quintetto, come è stato quest'anno, della Valle a Bass, sono stati il miglior quintetto europeo, molti di questi giocatori si perdono. E noi dovremmo tutelare il fatto che loro non si possano perdere, ma che finiscano questo loro ciclo di maturazione. Poi dopo professionismo, e sono totalmente d'accordo che possano prendere la valigia e andare a giocare in Lussemburgo, in Svizzera, piuttosto che in Repubblica Ceca. Però noi non possiamo esimersi nel fare tutto un lavoro, un po' come, parlando sempre come Peterson, no? Con i suoi tutti i detti che ha, è come riempire veramente il secchio di latte e poi dargli un calcio e buttare via tutto. Io credo che vada un po' capitalizzato finendo questo lavoro. Questo era del professore però, eh? Asa Nikolic, lo sai bene anche tu. Ah, è di Asa Nikolic, sì, io. Questo è di Asa Nikolic. Ciao Pino, grazie. Grazie a voi. Complimenti ancora per quell'oro. Complimenti ancora per quell'oro. Che luccica sul petto, non solo del basket ma dello sport italiano. Tutti convocati. Riprendiamo il Giro d'Italia degli ascoltatori. Stefano Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Senta, io avrei una domanda da farle, non lo so se posso. Ma come no, siamo qua apposta. Io volevo chiedere veramente il grande signor Garanzini che fine ha fatto, visto che a me piaceva tanto quel signore quando bacchettava tutti noi radioascoltatori. Sì. E lo faceva per bene. Volevo capire che fine ha fatto, tutto qua. Gigi Garanzini è vivolotto insieme a noi, è ospite di varie trasmissioni televisive, fa lo scrittore, eccetera, eccetera. Quindi non si preoccupi che può trovarlo su altri schermi. Semplicemente questo. Massimo Modena, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo fare una riflessione su De Laurentiis, no? Anche per provare a spiegare questo gesto di dire tutti questi soldi li voglio spendere, no? Secondo me lui doveva un po' riavvicinarsi alla piazza, che era un po' delusa, anche se c'era stato Cavani che aveva detto vado via io, però era un po' in depressione, mi sembrava. E facendo così ha in pratica ridato entusiasmo e nei confronti delle altre società ha detto bene, io voglio comprare questo giocatore, se non lo compro ho comunque i soldi per comprare un altro, non potrebbe essere andato anche così? Ma Massimo, non lo so, il discorso è che la piazza poteva essere risollevata nell'umore e nel morale semplicemente senza dirlo, senza sventolare la mazzetta andando a prendere Higuain, perché sarebbe stata la stessa cosa, poteva usare l'antidepressivo dei fatti, come poi ha dimostrato, no, De Laurentiis, perché è andato a prendersi chi voleva. Semplicemente da un punto di vista così strategico mi è sembrata curiosa la mossa del presidentissimo del Napoli, perché è chiaro che in un'ipotetica trattativa, almeno questa è una lettura fanciullesca, no, della realtà, poi chissà come, chissà perché, però in una ipotetica trattativa è come giocare a carte scoperte, come far vedere i soldi che hai in tasca, e dunque è normale che gli altri alzino il prezzo. Mi interessa quel giocatore, benissimo, te lo do, però io so che tu hai quei quattrini in tasca, il gioco lo conduco io che devo vendere e non tu che devi acquistare. Poi che Cavani sarebbe partito, insomma si sapeva che il Napoli si sarebbe comunque rinforzato, che il Napoli avrebbe comunque completato la squadra, era anche abbastanza noto, si trattava soltanto di avere pazienza. Cesare Bari, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione e volevo fare una considerazione, volevo avere il conforto di una sua opinione su quanto detto in apertura dall'avvocato Pasqualin. Sì. Io ascolto sempre con molto interesse, essendo una persona che esprime concetti condivisibili almeno per quanto mi riguarda. Mi ricollego anche a quanto detto dall'ascoltatore precedente, e cioè De Laurentiis, che a me come personaggio e come presidente, io tifo per l'Inter, sono di Bari quindi non ho alcun conflitto di interessi, sono colpito piacevolmente dal modo di fare, di essere del presidente De Laurentiis. E non vorrei dimenticare, ripeto, sono un tifoso interista, quanti soldi sono stati sbandierati in passato da presidenti di squadre più blasonate del Napoli, in modo anche un po', se mi consentite, anche leggermente più volgare. Ora, non vorrei che dietro queste considerazioni ci sia la solita dietrologia di chi magari pensa che adesso è arrivato il Napoli, una squadra che fino ad oggi non è stata al top del campionato italiano e non solo italiano, e incomincia a incrinare una serie di equilibri che in un calcio un po' fermo e retrogrado come quello italiano non vengono visti mai con grande interesse ed entusiasmo. De Laurentiis è una persona che ha gestito il Napoli, sta gestendo il Napoli secondo me con grande acume e intelligenza. Ma non ci dimentichiamo la stessa cosa che penso io. Sì, Cesare dice è il mio pensiero questo, perché De Laurentiis, cioè al di là delle battute che si possono fare, al di là del fatto che insomma è anche bello giocare su queste cose, sulle dichiarazioni di De Laurentiis, anche perché si prestano e lui si presta volentieri a questo tipo di gioco, ma De Laurentiis ha gestito in maniera magistrale il Napoli, non solo dal punto di vista del mercato, anche perché è stato bravissimo comunque a non arretrare di un millimetro né con la cessione di Lavezzi né con quella di Cavani rispetto alle sue esigenze economiche. Dunque, lo volete, è qui, costa tot, indietro io non vado, se non vi va bene me lo tengo, perché aveva anche la possibilità, lì non magari stava bleffando, anche perché un ingaggio di Cavani di 10 milioni di euro l'anno non era nelle logiche delle politiche del Napoli, che sono estremamente sagge. È previsto un tetto salariale da non sforare, perché sennò si rompono certi equilibri all'interno dello spogliatoio e dei bilanci, perché è chiaro che se dai 10 milioni a Cavani, cioè, hai la fila davanti all'ufficio di quelli che vogliono battere cassa per inchiostrare il contratto. Quindi De Laurentiis ha sempre adottato questo tipo di politica e secondo me sta gestendo magistralmente l'affare Napoli. Detto questo, rimane sempre un punto interrogativo dietro questo modo molto cinematografico di operare sul mercato. Dunque, adesso sentiamo Leonardo, provincia di Monza, Brianza. Buongiorno. Sì, buongiorno Genta. La ridisturbo, io l'avevo disturbata al mese di marzo più o meno, facendo un'affermazione molto forte, dicendo che Scariolo era un pessimo allenatore. Lei aveva un ospite in studio, della quale adesso non mi ricordo il nome. E Pino Sacripanti, allenatore di Cantù, ex di Caserta l'anno scorso, che ancora rimpiangono, come mi testimoniato da alcuni SMS. Però diciamo una cosa, che lei mi criticò per questo mio pessimo allenatore Scariolo. I fatti mi hanno dato ragione, vorrei che lei facesse ammenda di questo e mi chiedesse anche un po' scusa. Le chiedo scusa finché vuole, Leonardo, però mi tengo il mio pensiero, cioè io non sono convinto che Scariolo, ma la sua carriera parla per questo, sia un pessimo allenatore, perché o si sbaglia lei o si sbaglia mezzo mondo dei canestri, o si sbaglia il Real Madrid, si sbaglia la nazionale spagnola con cui Scariolo ha vinto. È chiaro, aveva Pau Gasol, aveva Navarro, Rudy Fernandez, e facciamo l'elenco di tutti Calderon, di tutti i grandi di questa generazione di Spagna, però vince uno solo e Scariolo ha vinto con la Spagna, con Real Madrid, col Tau Vittoria, con tutte le squadre che ha attraversato. È uno degli allenatori più gettonati, più in voga d'Europa, e lo è tuttora nonostante il fallimento di Milano. Dunque io non posso, non mi sento e non penso che Scariolo sia un pessimo allenatore, tutt'altro, secondo me è un grande allenatore che non è riuscito a venire a capo del dilemma Milano, così come non sono riusciti a venire a capo del dilemma Milano quelli che lo hanno preceduto, e non mi risulta che fossero degli allenatori così scarsi. Dunque io, se vuole, le chiedo scusa, però non arretro dal mio pensiero. Se lei però è contento, mi scusi. Dunque adesso voglio farvi sentire un'altra voce prima di chiudere. La voce è quella di riguardo al tennis, che è altro argomento bello e positivo di quest'estate dello sport. Allora, c'è Djokovic in questi giorni in Italia, ha parlato di Fognini. Molti chiedono, ma davvero può arrivare nei primi 10? Questo è il pensiero di Sua Maestà. Ho visto che ha vinto due tornei, comunque ho fatto congratulazioni, e ovviamente una bella sorpresa, perché ho vissuto con lui, è un grande amico, e mi raccomando per questi due tornei. Dunque questo era Djokovic. Voglio prima di chiudere invece, e mi sta molto a cuore, salutare mandando un pensiero, così, una preghiera meglio, alzando una preghiera al cielo nei confronti di Antonelli, che insomma, qui oggi verrà reso l'estremo saluto, pilota morto a Mosca, come sapete, domenica scorsa. Dunque direi servirebbe il silenzio che non è molto radiofonico, ma una preghiera silenziosa magari per questo ragazzo, certamente la intoniamo. Torniamo domani? Direi di sì, torniamo domani con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Nel weekend, tra l'altro, ci aspetta un altro appuntamento importante per quanto riguarda i motori, la corsa all'Hungaroring, una corsa che secondo me sarà uno snodo del Mondiale Piloti. Chiudiamo qui ringraziando Franco Piantanini, autore di questo programma, Filippo Aureggio in regia. Naturalmente ci sentiamo domani dopo il GR delle 14 e fino alle 15.